Alfin siam liberati, zerlinetta gentil, da quel scioccone, che ne dite mio ben, so far pulito. Signore, mio marito! Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato? Ma, signore, io gli diedi parola di sposarlo. Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per essere paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti sì belli, quelle dituccia candide odorose. Parmi toccar giuncata e fiuta rose. Ma non vorrei. Che non vorreste? Alla fine ingannata restar. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri. È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiamo tempo, in quest'istante io ti voglio sposar. Poi? Certo io. Quel casinetto è mio.